Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Allora, oggi ritorniamo ad esplorare l'umore del mercato, dei mercati finanziari. Perché? Perché ci incuriosisce quello che è successo negli ultimi due giorni, quello che è successo ieri, quello che sta ancora continuando a succedere. Il mercato è piuttosto nervoso. Era già successo con gli aiuti alla Spagna, i 100 miliardi annunciati dall'Unione Europea per mettere in sicurezza le banche spagnole in difficoltà. E abbiamo rivisto lo stesso film, abbiamo riletto lo stesso copione ieri, dopo le elezioni di domenica in Grecia, che hanno visto in maggioranza i partiti pro-euro. Ci si attende una notizia positiva, o perlomeno rassicurante, sul futuro dell'Eurozona. Questa notizia arriva, i mercati all'indomani sembrano guizzare in positivo, ma questa positività dura qualche ora, poi l'illusione svanisce. La fiducia conquistata sembra essere così esile da tornare a cadere in poco tempo, lasciando il posto alle preoccupazioni che investono gli altri paesi dell'Unione Europea, quella che viene chiamata ormai la sua periferia. E in un modo o nell'altro i riflettori tornano ad essere puntati anche sull'Italia. Come abbiamo appunto visto ieri, ricorderete che Milano è stata tra le piazze più penalizzate d'Europa, pesava anche lo stacco appunto delle cedole, l'1,2% sul listino complessivamente, però in ogni caso ieri ha lasciato sul campo il 2,85%. In assoluto Madrid è stata la peggiore, -2,96%, e via andare. L'unica ad aver festeggiato davvero è stata Atene, l'indice Composite ha guadagnato il 3,64%, ma in ogni caso la tensione, il nervosismo regna ancora sovrano. Oggi rivediamo le stesse condizioni di ieri, si è partiti bene in Europa, poi gli indici hanno rallentato il passo, adesso tornano a guadagnare, ma in una condizione molto eterogenea in tutta Europa. Oggi per esempio vediamo Parigi negativa, -0,10%, Francoforte +0,4%, nonostante il crollo dell'indice di fiducia sulle aspettative finanziarie, lo ZEV appunto, che a giugno è sceso a picco e quindi è andato molto al di sotto delle attese. Londra è positiva +0,89%, Milano +0,64%, quindi già Milano dall'inizio dell'anno lascia sul campo molto più delle altre piazze europee, e oggi il guadagno è davvero poca cosa rispetto a quello che sarebbe necessario far recuperare appunto a tutti il listino. Cosa succede? Ci facciamo spiegare stamattina dai nostri ospiti per quale motivo il mercato non si è accontentato dell'esito delle elezioni in Grecia, si guarda già avanti. Adesso il prossimo appuntamento è quello con le banche centrali, inizia oggi la riunione del Federal Open Market Committee, che è il braccio operativo della Banca Centrale Americana, e vedremo se domani la Federal Reserve annuncerà altre operazioni straordinarie di stimolo monetario. Per quello che riguarda la Banca Centrale Europea, a meno che Mario Draghi non intenda intraprendere anche in questo caso iniziative straordinarie, l'appuntamento istituzionale è quello del 5 luglio, la prima riunione del mese sui tassi di interesse. Vedremo se lì ci saranno le condizioni per un ridimensionamento dei tassi in Europa, già bassissimi all'1%. E allora, con chi commentiamo tutto questo questa mattina? La Grecia vota pro euro, ma i mercati non si accontentano. Per quale motivo? Luca Trabattoni, responsabile per l'Italia e il Mediterraneo di UBP Asset Management. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno anche ad Andrea Dell'Italia, responsabile Investment Advisory di Pictet Asset Management. Buongiorno. Buongiorno a voi. Nel corso della trasmissione poi sintetizzerò al massimo le vostre cariche, vado solo alla società, così accorciamo anche i tempi. E poi saluto e ringrazio, è collegato telefonicamente con noi questa mattina, Marco Rosati, amministratore delegato di Zenit SGR. Buongiorno. Buongiorno. Oltre ad analizzare quello che accade, naturalmente quello che a noi interessa è anche cercare di fornire, per quanto possibile, una guida, uno strumento di utilizzo dei mercati in maniera serena ai nostri ascoltatori, come si naviga con queste acque agitate in un momento in cui non si sa davvero che pesci prendere, come investire. La ricetta che forniamo sempre è quella della massima diversificazione, ma a quanto pare la polverizzazione anche delle proprie risorse non è neanche una condizione possibile per molti ascoltatori, non è che tutti abbiano poi tutto questo risparmio da poter diversificare al massimo, quindi bisogna essere molto realisti anche da questo punto di vista. Vi ho già raccontato quello che succede questa mattina in borsa: c'è stata l'asta di titoli spagnoli che è andata bene, il tesoro iberico ha collocato i 3 miliardi di titoli di Stato che aveva sul piatto a 12-18 mesi, però naturalmente ha dovuto offrire rendimenti molto alti. Pensate che sulla scadenza a 12 mesi Il rendimento medio è salito al 5,07% dal 2,98% dell'asta di maggio. Per il titolo a 18 mesi il tasso è salito al 5,1% dal 3,3% del mese scorso. Quindi praticamente le scadenze stanno anche allineando i loro rendimenti e questa è una condizione di inversione della curva, non ancora ci siamo probabilmente in Spagna, ma magari ci ritorneremo a breve, che è quella che avevamo visto anche negli scorsi mesi in Italia, quando i titoli a breve scadenza rendevano di più delle scadenze più lunghe. Era una condizione che preoccupava un po'. Allora, con chi cominciamo? Cominciamo con Andrea Dell'Itala, perché tra mezz'ora deve lasciarci, ma in ogni caso ha deciso di venire lo stesso a trovarci qui in studio. Ci spiega per quale motivo il mercato non si è accontentato di quello che è successo dal punto di vista elettorale in Grecia? Sì, io direi che il risultato elettorale favorevole, diciamo, ai partiti moderati, quindi a una qualche forma di adesione agli accordi precedenti, pregressi, comunque verranno negoziati, sia ben chiaro, non soddisfa il mercato, perché il mercato è diventato estremamente impaziente nei confronti delle soluzioni parziali. Se vogliamo dirlo semplicemente, abbiamo evitato di avere un'ulteriore escalation della crisi o una deriva più complicata, diciamo, derivante dalla potenziale difficoltà della Grecia in caso si fossero arrestati i pagamenti, no, nei suoi confronti, cosa che per la verità non è del tutto scongiurata. Abbiamo già visto un po' di balletti, diciamo, un po' negoziali, forse nella formazione di un nuovo governo. Il PASOK si tira indietro, dice voglio un governo a quattro, cosa se non c'è Syriza dentro, non ci sto, Syriza non vuole nemmeno parlare, quindi insomma non è tutto rosa e fiori comunque, ma certamente la probabilità di uscita della Grecia è diminuita, non è sparita dal mercato. Se vogliamo quantificarlo, c'è un sito inglese dove si scommette esattamente su questa cosa. Entro fine anno la previsione di uscita della Grecia era data al 40% fino a prima delle elezioni, oggi quota intorno al 32%. Mi scusi se la interrompo, se con le reazioni che il mercato continua ad avere a questo punto non stia spingendo sull'acceleratore per farla uscire in fretta. È una provocazione questa, oppure qualcosa che può avere anche della verità dietro? No, io non la sposo per niente questa view. L'ho sentita a qualche, semmai, adepto, qualche follower nell'ambito politico. Si dice che la Grecia dovrebbe servire da spauracchio agli altri paesi se fosse indotta ad uscire, ma sia ben chiara una cosa: l'80% dei greci non ci pensa proprio a uscire e non esiste una procedura legale per l'espulsione di un paese né per l'autoesclusione. Quindi c'è un solo modo, piuttosto complicato, perché il paese abbandoni effettivamente l'unione monetaria, ed è quello che passa dall'arresto dei pagamenti, la sospensione dell'autorizzazione delle linee di finanziamento d'emergenza della BCE alle banche greche, le cosiddette Emergency Liquidity Agreements, e da quel momento in poi effettivamente la Grecia ha un problema nell'effettuare pagamenti. Cosa fa? Emette dei pagherò, probabilmente per pagare gli stipendi pubblici, che arresterebbe tutto il possibile, ma almeno gli stipendi pubblici dovrebbe pagare, e quei pagherò sono l'embrione di una nuova moneta. Questa è tecnicamente quello che dovrebbe succedere. Si badi bene che, a mio modo di vedere, nemmeno in questa configurazione, che potrebbe durare almeno temporaneamente un mese, forse fino a tre, non di più, si avrebbe dual currency, cioè doppia circolazione di moneta, l'euro con tutti i debiti e gli stock che rimangono in essere e questi pagherò, che non è una nuova dracma, sono delle forme di cambiali, diciamo così, del governo, fino al ripristino della situazione, se si negozia, si crea un governo e si trova nuovo l'accordo con la Troica e vengono forniti i mezzi per ripagare. Se non si arriva a nessun accordo, è chiaro che a un certo punto la Grecia dovrebbe riconoscere lo stato di fatto e tradurre quei pagherò in nuova dracma. Per chi si diverte a simulare un ritorno alla condizione pre-euro, questo è quanto potrebbe accadere anche in Italia? Siamo lontanissimi da questa ipotesi. No, però come ipotesi. Dire, le procedure sono questo, i pagherò per pagare gli stipendi pubblici, magari c'è Trabattoni appunto che vuole già freme per dire la sua. Vi dico intanto che la Grecia ha collocato sul mercato buoni del tesoro a 3 mesi per 1,3 miliardi di euro. L'operazione si è conclusa al tasso del 4,31%, in leggero calo rispetto al 4,34% pagato nella precedente analoga emissione. Che non stiamo vedendo qualche inversione di tendenza in Grecia? Mi pare un piccolo sospiro di sollievo tirato anche qua. Trabattoni. Buongiorno. Diciamo che il mercato ieri ci ha insegnato una grande lezione, ha deluso le nostre attese perché ci ha fatto capire che il problema non era in effetti la Grecia, la sua tenuta, il suo rimanere nell'euro, ma erano poi gli effetti delle azioni dei politici per risolvere una crisi, quindi una crisi profonda. Questo vorrebbe dire, riprendendo l'esempio di prima, che se dovessimo avere una Grecia che esce dall'euro, immediatamente avremmo una Spagna che esce dall'euro e un'Italia che esce dall'euro. Le conseguenze sono inimmaginabili, anche perché quando hanno creato l'euro, se mi passate questo esempio un po' semplice, hanno creato, come dire, hanno rotto le uova e hanno fatto una frittata. Dalla frittata non è più possibile risalire all'uovo. Questo per spiegarlo anche a tutti gli ascoltatori che insistono sulle modalità anche di ritorno alle condizioni precedenti: non si ritorna indietro qualora succedesse nel giro di un mese, sono procedure complessissime, visto quanto è servito per creare questa condizione attuale che è comunque ancora confusa. Ritornare indietro sarebbe ancora peggio e molto più confuso e soprattutto molto costoso. Soprattutto deve uscire anche dall'Unione Europea, sia chiaro, non solo non esiste la procedura per uscire dall'Unione Monetaria e basta. Se la Grecia dovesse mai trovarsi in quella condizione che abbiamo descritto, uscirebbe gioco forza dall'Unione Europea, cioè si tratterebbe comunque di alterazione dei trattati. Trabattoni, ma allora perché la Germania insiste così tanto? Perché è così inflessibile nelle richieste di rigore che fa non solo alla Grecia ma anche a tutti gli altri paesi periferici? Perché poi se i bonus spagnoli, se i BTP italiani sono bersagliati dalle vendite, chiaramente è tutto riconducibile anche all'intransigenza della signora Merkel, ormai ce lo siamo raccontati in ogni modo. La mentalità tedesca si basa su un assunto che è dimostrabile, cioè non fanno altro che trasferire agli altri la loro esperienza di successo. Negli ultimi 10 anni la Germania ha attuato quello che sta predicando di fare agli altri, sostanzialmente, quindi ha attuato una politica, noi diciamo oggi, di austerità, io direi molto più semplicemente di rigore. Ha tagliato dove serviva, ha ridotto i costi, ha incentivato le aziende, ha riformato il lavoro, ha fatto accordi con i sindacati, ha aumentato la produttività e quindi ha fatto in modo che la Germania potesse essere competitiva sostanzialmente. Perché oggi ne beneficia? Paga meno in termini sociali la Germania rispetto alle misure di austerità e di rigore che prende in confronto ad altri paesi, dove invece qualunque iniziativa di rigidità e di rigore si prenda ha una sollevazione popolare molto importante, perché da noi basti vedere che ogni occasione è buona per naturalmente contestare le misure paga di qualunque meno. Tipo. Ci ricordiamo che negli anni scorsi abbiamo avuto i sindacati tedeschi che sono entrati in scontro con i tedeschi, diciamo con il governo tedesco. Ma non sono tedesco. Comunque situazioni ricorrenti? Non sono situazioni ricorrenti, e anche perché poi alla fine c'è stato forse un senso di responsabilità, anche perché ricordiamoci che la Germania aveva già attuato questo piano quando ha integrato la Germania dell'Est, quindi non ha fatto altro che sviluppare e incentivare un modello che aveva già diciamo così iniziato a sviluppare nella fine degli anni Ottanta. Quindi questo che cosa vuol dire? Che cosa succederà alla Grecia? Che cosa chiede adesso la Germania dopo le elezioni? Quindi che cosa potrebbe servire a calmare un po' il mercato? La Germania chiede, naturalmente beneficia di questa situazione in quanto un euro debole consente alla Germania di essere competitiva a livello di esportazioni globali, quindi ricordiamoci che la situazione è in mano ai politici. La situazione che oggi viviamo in Europa è un po' come se ci fosse stato un incendio. Abbiamo da una parte i pompieri, che sono sostanzialmente le banche centrali, e dall'altra parte abbiamo i costruttori, quelli che dovrebbero ricostruire questa casa che sta andando in fumo, e sono i politici. Però la logica dei politici non è quella di un tecnico o quella di un banchiere centrale. I politici rispondono ai propri elettori, e questo il mercato credo lo stia indicando, ci stia dicendo il mercato con quello che sta succedendo in questi giorni. Dobbiamo andare verso una unione Stati Uniti d'Europa o confederazione di Europa, di paesi europei. Questo un po' il dilemma. Stavo sorridendo, i miei interlocutori che sono qui in studio mi guardano perché c'è un ascoltatore che ha scritto, forse non ha neanche tutti i torti. La Germania dice non ha, fa due nomi, li posso anche dire, la Minetti e Scilipoti in Parlamento, forse anche questo è il motivo per cui magari la certe riforme di rigore passano in maniera più serena, certe iniziative appunto di rigore. Allora 800 24 00 24 il numero verde per i vostri interventi, non non ho ricordato all'inizio, ma avete sempre l'opportunità di interagire con noi anche scrivendoci al 349-238-6666. Marco Rosati, amministratore delegato di Zenit SGR, nostro terzo ospite di oggi, mi racconta un po' cosa succede ai suoi telefoni, nei suoi uffici in questi giorni, che tipo di richieste le stanno facendo i suoi clienti, che preoccupazioni manifestano i risparmiatori di cui gestite il denaro, comunque a cui offrite consulenza. Quali sono gli aspetti che preoccupano di più? Ma allora, direi che chiaramente gli aspetti che preoccupano di più e che in alcuni casi spaventano moltissimo sono gli scenari apocalittici di disgregazione dell'euro, di un'Europa che va in una crisi inaudita, che inevitabilmente seguirebbe un'uscita disordinata dell'euro e una riorganizzazione senza una regia chiara. E questo qui è il primo scenario che preoccupa. Per il resto invece l'atteggiamento di alcuni dei nostri clienti è molto polarizzato, ossia alcuni clienti che ci chiedono di diversificare i loro portafogli il più lontano possibile dall'euro o dal rischio di euro, e chi invece ravvisa delle ottime opportunità, ad esempio sui titoli italiani. Chiaramente la nostra, diciamo, opera è quella di cercare di mediare un po' tra questi due estremi. Suggerite voi in questo momento di continuare a puntare sul debito italiano, Rosati? O avete suggerito un alleggerimento delle posizioni, oppure anche lì la massima diversificazione per diversificare al massimo il rischio? Allora, un po' di diversificazione è sempre assolutamente necessaria e indispensabile, e quindi bisogna diversificare un po' il rischio, cercare di avere degli investimenti che in parte compensino con degli utili eventuali perdite che si dovessero realizzare su altri strumenti, quindi un po' di equilibrio del portafoglio, cercando di selezionare dei portafogli che si muovono, degli strumenti che si muovono in misura opposta tra di loro, e questa è senz'altro una cosa molto molto importante. Per quanto riguarda invece continuare a credere serenamente, ancorché con una grande attenzione, anche una grande attività di trading di breve, medio periodo sui titoli governativi, sui titoli del Tesoro italiano, noi ne siamo fermamente convinti. I mercati vogliono la crescita. Chi investirebbe oggi su cose che regrediscono? Lo chiede, lo dice un ascoltatore, è un'affermazione assolutamente molto corretta. Andrea Dell'Itala, mi spiega per quale motivo il mercato, dopo che venerdì scorso il nostro governo ha approvato il super pacchetto per la crescita, che secondo le intenzioni, gli auspici del ministro Passera, vorrebbe movimentare risorse fino ad 80 miliardi di euro, il mercato a quell'aspetto lì non ha per niente guardato. Prima Monti, con iniziative impopolari che non sono piaciute, diciamo quello che vogliamo, ha voluto mettere in sicurezza i nostri conti e quindi farci ritornare a guadagnare credibilità sui mercati finanziari. Allo spread quello non è bastato, perché si cercavano le iniziative per la crescita. Venerdì sono state messe sul piatto, il mercato ha detto non mi interessa niente, l'Italia è un paese periferico, questo pacchetto non lo guardo, lo spread è a 470 punti. Perché? Ci sono due livelli di questa crisi, uno è specifico, l'altro è sistemico, cioè generale. È chiaro che ogni paese conta poi per il sistema, ed è chiaro che ogni paese ha i suoi problemi specifici da risolvere: le elezioni greche, le banche in Spagna, la competitività in Italia. Molti di questi paesi stanno facendo mosse giuste nel progredire alla graduale eliminazione di problemi che sono anche ereditati e di antica data. Il punto è che tutto questo conta pochissimo rispetto all'elemento sistemico che domina su tutto e che ha gioco forza il fulcro nelle decisioni politiche. In questo momento l'Europa è in mano ai politici tutti insieme, se vogliamo alla Merkel prima di tutto, perché è azionista di maggioranza soprattutto della cassa e della cassa di credibilità, mettiamola così, in Europa, e su questo la decisione latita. È 2 anni e mezzo che andiamo avanti a trascinarci in una crisi che chiaramente, ormai l'abbiamo capito, la reazione negativa del mercato a ogni sistemazione, diciamo, del livello precedente del specifico dei singoli paesi non è sufficiente. L'Italia ha sofferto un allargamento degli spread di 150 punti base, non perché ha fatto qualcosa di male, lei poverina, noi abbiamo fatto qualcosa di giusto, magari un po' più lentamente di prima, ma qualcosa di giusto l'abbiamo fatto. Il punto è che in Europa la stasi politica, il semestre bianco, la fase elettorale, eccetera, ha impresso una battuta d'arresto all'iniziativa politica, senza la quale il mercato oggi casca indietro, casca su se stesso. Oggi c'è una divergazione, e questo è l'elemento sistemico, gravissima tra paesi VIP e paesi, diciamo, invece della periferia. I primi pagano meno del 3% sul debito pubblico, gli altri pagano tutti più del doppio, cioè il più basso paga più del 6%. Qua è la classe, come dire, dei paesi che, per i quali l'euro così com'è è insostenibile. Questo ormai non lo dico solo io, che lo dico da tanto, ma l'ha detto Draghi, no, nelle ultime settimane. Cosa bisogna fare, credo, no, per riaccoppiare questa divaricazione assolutamente insostenibile, ed è che quel motivo per cui appunto le iniziative specifiche non aiutano a risolvere. Bisogna stabilire la strada. Non credo si possa ambire agli Stati Uniti d'Europa, come diceva il mio ex collega Trabattoni, ma si può senz'altro e si deve, a opera dei politici, disegnare la mappa, la rotta di avvicinamento verso quell'obiettivo. Quell'obiettivo è chiaro che è troppo lontano per i mercati, perché i mercati possano stabilizzarsi. Diciamo 2020, bene, prima ci vorrà qualcos'altro. Che cosa? Chiaramente è qualcosa che ha a che fare con l'unione fiscale, la mutualità fiscale, la messa a fattor comune del merito di credito, ovviamente. Peccato che la Germania non è che lo farà così per gentilezza, lo farà previ impegni politici che sono ancora più forti del fiscal compact, cioè degli impegni già presi, che ricordiamolo sono quelli di avere il deficit sostanzialmente in pareggio e addirittura un risanamento progressivo del debito che deve marciare verso il 60% in 20 anni, quindi una riduzione del 5% all'anno. Diciamo che però bisogna disegnarlo il percorso, e lo si può rafforzare immaginando delle forme almeno parziali di emissioni comune. Qualcuno gli Eurobond è famoso, ma l'Eurobond è troppo ambizioso, perché l'Eurobond sembra evoca immediatamente la messa a fattor comune integrale del debito. Ci sono delle forme intermedie, parziali, intermedie, o i project bonds proposti da Barroso, cioè dalla Commissione. Lì sembrano tutti d'accordo, ma no, mica tanto, mica tanto. La Germania in questo momento sta nicchiando anche su quello. Soprattutto sulla proposta che io ritengo, per esempio, più fattibile in tempi brevi, che è quella, tra l'altro, di matrice tedesca, dei saggi, che prevederebbe la messa a fattor comune solo del debito eccedente il 60%. Praticamente l'eredità gravosa e fastidiosa di paesi con molto debito come l'Italia viene messa tutta in un grosso fondo e ci si impegna a restituire, no, con rate. Mi ricorda le procedure fallimentari di tante società quando costituiscono la bad company e la good company, dove da una parte mettono gli asset cattivi, quelli da liquidare, mentre in un'altra parte mettono praticamente gli asset buoni che possono continuare. Però c'è una differenza importante, è che lì quel fondo emetterebbe a valere sul merito di credito della Germania, cioè di tutti insieme i paesi, e quindi emetterebbe a tassi molto agevolati, e con questo aiuterebbe i paesi alla redemption. In pratica per l'Italia si tratterebbe di devolvere circa 50 miliardi ogni anno, cosa alla quale siamo già impegnati. E intanto in tutto questo il mercato scende in attesa che costruiamo anche tutto ciò. Luca Trabattoni mi chiede: adesso c'è un ascoltatore, Marco da Verona, a cui mi piacerebbe dare spazio per rispondere ad un messaggio che ci scrive. Dice: ma per gli investitori che chiedono di investire fuori dal rischio zona euro, allora che cosa consigliate? Adesso le daremo, Marco, l'orientamento dei nostri ospiti, però mi stavo chiedendo, Luca Trabattoni, se la Banca Centrale Europea potesse, lo potrebbe fare, al momento non vuole rifarlo, riprendere il suo programma di acquisto di titoli di Stato, con il quale ha raffreddato un po' gli ardori dello spread lo scorso inverno. Adesso la situazione sarebbe un po' più tranquilla, nonostante il risultato elettorale greco, nonostante la necessità di ricapitalizzare in maniera prepotente tutto il sistema bancario spagnolo e chissà che cos'altro c'è dietro l'angolo. Diciamo che la politica monetaria in questo momento è al limite, perché i bilanci delle banche centrali sono troppo grandi rispetto al PIL dei singoli paesi, per cui il margini non ci sono molti margini. La BCE potrebbe ancora tagliare, abbassare i tassi, per esempio, per favorire cosa? Per favorire lo sviluppo. Ricordiamoci, l'Europa è un mercato di 300 milioni di persone, di consumatori, quindi già a livello domestico è una grandissima opportunità, ce lo dimentichiamo spesso e volentieri in questi giorni. Perché? Perché il mercato sta scommettendo contro un crollo dell'euro, o comunque un mettere l'Europa nell'angolino. chi ha interesse, la domanda è sempre questa, chi ha interesse a che ciò avvenga? Probabilmente ieri Monti, Presidente Monti, ci faceva, allargava, diciamo così, il livello di responsabilità sulla crisi europea, e la Merkel sostanzialmente dava ragione a questo tipo di indicazione, coinvolgendo gli Stati Uniti principalmente, che sono un po' i accusati di essere stati l'origine di questa crisi e di non aver dato delle risposte, almeno a livello interno, su come risolverla, ma hanno soltanto stampato carta, sostanzialmente stampato moneta. Questo appunto per far capire che non è, diciamo così, le azioni non possono essere fatte soltanto da una politica monetaria se un mercato sta scommettendo a livello esterno contro su qualcosa di molto più grande. Allora Marco Rosati, per tutti quegli ascoltatori che si sono un po' spaventati rispetto a quello che hanno visto anche in casa propria, casa nostra, no? Tutto questo contagio che in qualche maniera ancora un po' lo arginiamo, ma in ogni caso qualche effetto lo abbiamo visto, e vogliono proteggere il proprio risparmio scegliendo al di fuori dei confini domestici, appunto, voi che tipo di orientamento state suggerendo in questo momento? Ma guardi, noi stiamo, chi vuole investire fuori dai confini domestici, stiamo suggerendo di investire prevalentemente in un paniere di titoli oltremodo sicuri, per chi vuole avere la massima tranquillità, e quindi in denominati in buona misura in valute diverse dall'euro, e quindi in un paniere di valute diverse dall'euro che comprendono chiaramente in prima fila il dollaro, corona norvegese, svedese. La corona sta diventando veramente in questo momento l'ossessione di molti. Di molti risparmiatori e piccoli investitori anche stanno cercando tutti questa divisa, piccolo inciso, sì, nero Rosati. Diciamo, questa mi sembra una corretta diversificazione. Lo stesso chiaramente anche in un paniere, anche se poi anche loro potrebbero soffrire molto da una seria crisi europea, diciamo, delle monete cosiddette dei paesi emergenti. Ecco, quindi direi queste qui sono le strade. Su, per quanto riguarda, diciamo, se uno vuole comunque una... Ma lei quando dice, per esempio, comprare la corona norvegese, si tratta solamente di acquisire asset, l'investimento espressi in questa divisa, quindi obbligazioni di questo paese, ma anche il mercato azionario di questo paese, Rosati, così tanto per dare qualche orientamento agli ascoltatori? No, noi sul mercato azionario di questi paesi non siamo investiti, quindi esclusivamente mercato obbligazionario o chiamiamolo monetario, strumenti a breve, quindi è esclusivamente una questione di diversificazione valutaria e di emittente rispetto agli emittenti dell'Europa debole, chiaramente. Ecco, abbiamo una... non invece consigliamo nel modo più assoluto di comprare dei titoli tedeschi, perché francamente nell'ipotesi peggiore, nel worst case scenario che nessuno si immagina e saprebbe, credo, immaginarsi, onestamente non ho ben idea di che cosa succederebbe a un titolo tedesco denominato in euro di un risparmiatore che oggi italiano. Ha un rendimento a lungo termine che praticamente raschia il terreno, cioè in termini reali è negativo quasi. Assolutamente. Benissimo, allora io ho 4 minuti di tempo, ne assegno 2-2 ad Andrea dell'Italia e a Luca Trabattoni. Mi rendo conto che usciranno un po' frustrati, vorremmo parlare ancora molto a lungo di questa crisi, non ce la facciamo, però anche a loro la stessa domanda. Dovendo suggerire a chi chiede la massima protezione, massima conservazione del proprio capitale, il miglior posizionamento possibile in questo momento sul mercato, qual è la ricetta più serena che si può dare? Poi mi rendo conto che anche per voi è molto difficile formulare delle previsioni. Luca Trabattoni di UBP Asset Management. Sintetica, a livello di fixed income, quindi di debito, noi suggeriamo a parità di rendimento troviamo, come rendimento di un BTP, troviamo alternative nel debito, nelle obbligazioni convertibili, però in quelle obbligazioni che hanno una bassa sensibilità al mercato azionario. L'obbligazione convertibile è quella che dopo a scadenza si converte, esatto, in azioni, ha la magari possibilità della società di avere una conversione. Oggi addirittura, a causa dell'andamento dei mercati azionari, abbiamo delle obbligazioni convertibili che rendono di più rispetto alla stessa obbligazione che non ha questa opzione. Quindi l'obbligazione convertibile, non andiamo su durate molto lunghe, quindi scadenze 2015-2016, lo stesso discorso per titoli ad alto rendimento, quindi high yield globali, magari americani, E l'altra asset class che noi raccomandiamo è il debito emergente. Si sta costruendo, strutturando un mercato anche per quello che sono le obbligazioni corporate dei mercati emergenti, corporate addirittura investment grade. Oggi esiste la possibilità di diversificare. La seconda cosa, la nostra asset class che privilegiamo comunque restano le azioni, anche se chiaramente siamo prudenti in questo senso. Abbiamo visto recentemente parecchio interesse degli investitori sul franco svizzero, quindi azioni in franchi svizzeri, anche perché le azioni quotate alla borsa di Zurigo sono in genere dei global player, quindi azioni globali, non sono legate al mercato domestico. Il franco, è vero, potrebbe spostarsi, anche secondo l'indicazione della Banca Nazionale Svizzera, che vorrebbe addirittura aumentare la difesa da 1,20 a 1,25, quindi possibilità. Potrebbe essere uno dei prossimi step. Vado alla ricetta invece di Andrea dell'Italia, che so per certo sta facendo incetta di lingotti d'oro a casa sua. No, bugia, l'oro non ci pensiamo proprio, è molto volatile, lo abbiamo visto, e lo sarà probabilmente anche di più, perché c'è il rischio che a un certo punto si faccia ricorso all'oro delle banche centrali, almeno come forma di garanzia rispetto ad alcuni pacchetti di intervento. Io mi aspetto comunque interventi a questo punto dopo una qualche roadmap da parte della BCE, quindi sono costruttivo. Resta il fatto che noi da molto tempo raccomandiamo, certo, grande diversificazione sul reddito fisso, titoli governativi comunque dell'area euro, che non superino mai la metà della componente di reddito fisso, quindi 20-30% se parliamo di un portafoglio bilanciato tra 70-80% di obbligazioni, il grosso in corporate bonds, lontane dall'epicentro della crisi, lontane dal contagio primario della crisi che è sui finanziari. Noi in Italia siamo pieni di obbligazioni bancarie, per esempio, ecco, quello lì è costato moltissimo al portafoglio degli italiani. E d'altronde per avere banche devono comprarsi i titoli di Stato, se no la Banca Centrale Europea non dà loro soldi e in qualche maniera devono finanziarsi. Le banche sì, ma noi non necessariamente, ecco. I privati fanno meglio a tenersi lontano. Abbiamo degli strumenti, per esempio, che sono depurati dalla componente finanziaria, vanno benissimo il corporate bond, le aziende sono sane, le banche sono contagiate, e certamente obbligazioni dei paesi emergenti. Sull'azionario molto globali, grande diversificazione, il grande diversificatore non troppo costoso resta effettivamente il dollaro e le valute emergenti. Stavo riflettendo sul suggerimento dato di non riempirsi di obbligazioni bancarie. Lei però, se va in banca e magari ha la capacità di negoziare con l'impiegato che gli lavora a appiccicare a tutti i costi, magari mia zia fa un po' più fatica, però insomma qualche suggerimento gliel'abbiamo dato. Ma apposta l'ha dato nella vostra trasmissione. Ecco, vabbè. Allora, pillole IMSS, quelle che ci aiutano a capire un po' meglio l'ultima riforma delle pensioni. Oggi continuiamo a parlare delle regole valide per quelli che vengono definiti lavori usuranti. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con IMSS. Per quanti anni bisogna aver svolto un lavoro usurante per aver diritto all'anticipo della pensione previsto in caso di lavoro usurante? Perché il lavoro usurante svolto possa essere fatto valere per conquistare l'anticipo della pensione, è necessario essere stati impiegati in questo tipo di attività per almeno 7 anni. Compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017 e almeno la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 1 gennaio 2018. Grazie a Marco Rosati, Luca Trabattoni e Andrea dell'Italia per essere stati con noi. Salva Danaio torna domani. Da Deborah Rosciani a tutti, buona giornata.